quando l'arroganza regnerà nei palazzi e i popoli grideranno, urleranno come pazzi e nessuno potrà muovere un dito, allora tu saprai che il mondo è fallito quando in ogni sguardo regnerà l'indifferenza ed ognuno penserà alla ricchezza, alla sua pancia. Tu allora saprai che il tempo è arrivato, il tempo della guerra, il tempo del genocidio. Popolazioni intere saranno massacrate da bestemmie nucleari, bombe pilotate dall'ipocrisia del mondo che mostrerà il suo volto. Questo tempo finirà sotto i chiodi, sotto torchio. Nessuno sarà escluso da questo futuro senza memoria. Si sta preparando la più grande carneficina della storia, quando intere terre bruceranno e avranno sete. A poco serviranno le preghiere, ipocrite scuse. La notte sarà buia più di ogni tenebra. Sta arrivando macabra la guerra atomica. Saranno molti coloro che domanderanno in ginocchio la fine. Tanto sarà grande, grande il dolore. Le madri avranno niente, nulla da offrire, e per molti sarà giunto il momento di morire. Popolazioni intere saranno massacrate da bestemmie nucleari, bombe pilotate dall'ipocrisia del mondo che mostrerà il suo volto. Questo tempo finirà sotto i chiodi, sotto torchio. Nessuno sarà escluso da questo futuro senza memoria. Si sta preparando la più grande carneficina della storia. Non chiedermi né dove né quando scoppierà il conflitto. Io so che sta arrivando. Tu non prendermi per pazzo. Ti diranno: ecco la guerra, ed invece sarà una stella. Ti diranno: ecco la stella, ed invece sarà la guerra. È stata annunciata da chi ha visto anzi tempo. Avvenga quel che avvenga, io a te ci tengo. Tieni al caldo il tuo sangue freddo, lasciarti trascinare nel fango. Tieni a cuore il tuo cuore, questo forse ti potrà salvare. Popolazioni intere saranno massacrate da bestemmie nucleari, bombe pilotate dall'ipocrisia del mondo che mostrerà il suo vero volto. Questo tempo finirà sotto i chiodi, sotto torchio, nessuno sarà escluso da questo futuro senza memoria. Si sta preparando la più grande carneficina della storia. Sarà talmente triste che nel fuoco si cercherà il sollievo, credendo di salvarsi, perderanno anima e sacro. Il mondo è già in tumulto, stanno preparando la terra ad accogliere la morte, ad accogliere l'ultima guerra.